il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Finalmente insieme, qui che scalpitavo un'intera settimana, deve passare qualche minuto anche più, diciamo è passato, ma finalmente siamo insieme io e voi, voi ed io, per ritrovarci come sempre qui il sabato a ritornare su alcune delle notizie della settimana, quelle diciamo che vi hanno maggiormente colpito, per esprimere liberamente le vostre opinioni, perché ci sia un confronto, diciamo, il più possibile tranquillo naturalmente tra noi e l'opinionista estemporaneo che, come sempre, vi presento tra qualche minuto. Notizie moltissime anche in questi giorni, ovviamente, diciamo, quella dominante sono i referendum, sapete che si vota domani e dopodomani, però silenzio elettorale, quindi non parliamo dei referendum, ci scateneremo poi dopo quando ci saranno i risultati. Poi c'è naturalmente questa settimana una vicenda che è rimasta sospesa per tanto tempo, ha creato questa tensione prima tra Italia e Francia, poi tra Italia e Brasile, il caso Battisti, che si è concluso poi con un no all'estradizione, con tutte le polemiche naturalmente che ancora continueranno nel tempo. Adesso c'è il ricorso credo appunto a Bruxelles dell'Italia, che chiede l'intervento dell'Europa. Quindi questa è sicuramente una vicenda importante e interessante. Il batterio killer che continua a spaventare, si passa da un ortaggio all'altro, ancora non si è capito chiaramente, poi vedremo. Il calcio scommesse, l'ennesimo scandalo, tutti cercano adesso di tirarsi fuori. Questo ex portiere della Cremonese Paoloni, che è stato interrogato ieri per 6 ore, che ha detto non è vero che ho sedato tutti i miei compagni, è stato accusato appunto di aver condizionato l'esito di una partita dando del tè con del sedativo, insomma, ai suoi colleghi. Poi il divorzio tra Rai e Santoro, che sembra che si sia consumato con una buona uscita di 2,3 milioni, che però insomma continua anche questo a creare dibattito. Poi Santoro ha rilanciato con una proposta: rientro a 1 euro a puntata, però Galimberti sembra che sia un po' presa, presidente della Rai. Anche qui, qual è la vostra opinione? 800 24 00 24, numero verde 800 24 00 24. Poi Pisapia, che è stato uno dei protagonisti delle ultime, uno dei due soprattutto protagonisti, lui e De Magistris, delle ultime amministrative, che ha presentato la sua giunta, come promesso 50% donne e 50% uomini. E poi questo fatto di cronaca orribile delle ultime ore a Castelvolturno, in provincia di Caserta, un uomo di origine ghanese in una comunità appunto nera, un po' degradata eccetera, ha preso una bambina di 5 anni perché aveva litigato forse con la madre di questa bambina, che tra l'altro è incinta, l'ha picchiata e l'ha lanciata in un canale. Delle cose che veramente non mi fanno sempre chiedere, chiedo anche a voi, di cosa siano capaci a volte certi uomini, ma a qualsiasi latitudine, al di là dell'etnia. Sono cose a cui non si può dare una spiegazione. È incredibile che facciano parte appunto degli esseri umani. Poi la guerra che continua in Libia, Gheddafi, che è stato accusato da un portavoce dell'ONU anche di dare il Viagra ai suoi soldati per violenze di massa, delle cose, io non lo so veramente se questo è un mondo dove si possa vivere in modo umano. Poi c'è l'Europride a Roma, una grande festa, credo che sia forse la più importante dopo quella del Giubileo del 2000 a Roma, quindi da tutta Europa arrivano, c'è questa grande festa a Roma, ci sarà anche Lady Gaga, la pop star internazionale, anche qui un po' di polemiche, e questo incontro storico degli zingari con il Papa oggi, è il primo incontro in assoluto, incontro gitano con il Vescovo di Roma, e ci sarà anche, leggevo ieri una storia interessante su Repubblica.it, questo zingaro musulmano gay che lo incontrerà a sua volta il Papa, forse il Papa non lo sa, diciamo che è anche gay, però è una cosa molto interessante e molto particolare. Poi l'Economist che ha ridedicato la copertina al presidente del Consiglio Berlusconi dicendo l'uomo che ha fregato l'Italia, titolo un po' forte, che ne pensate? 800 24 00 24, tra poco poi darò spazio anche naturalmente a tantissimi commenti che avete fatto sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sapete che è sempre lì per voi, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, tante su le possibili primarie del PDL, sui bronzi di Riace, e poi anche del divorzio tra Santoro e Rai. Galan, che ha detto a proposito della possibilità, della proposta diciamo della Lega di spostare alcuni ministeri al nord, ha detto, cito testualmente, puttanata intercontinentale. Però insomma, 800 24 00 24, signore e signori, opinionista di oggi. Fabrizio Rondolino. Buongiorno. Caro Fabrizio, guarda, ero talmente emozionata di presentarti, di correre subito a palesare la tua presenza, che mi sono dimenticata un rito che ho sempre con le ascoltatrici e gli ascoltatori, che è quello che mi fa dire ogni volta, magari pensaci anche tu nel frattempo, che cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni, di settimana in settimana. Per esempio, per me questa settimana il fatto che lo conferma è che è nata, non so se hai sentito, si chiama Rosita, una mucca che fa il latte uguale a quello materno delle donne. È stata prodotta in Argentina con l'inserimento di alcuni geni umani inseriti nel suo DNA, e questa mucca è pronta a fare, so che ne pensi tu, ma questo ci dice che neanche le mucche sono più quelle di una volta, sinceramente. Che pensi tu, Fabrizio? Ma sai, sul titolo di questa tua trasmissione, sì, che è molto simpatico. Grazie. Ed è molto azzeccato. Ho scoperto una cosa, ma per caso. E nello Zibaldone, Giacomo Leopardi, sì, all'inizio dei primi anni dell'Ottocento, quindi 200 anni fa, dice: non ci sono più le mezze stagioni. Si lamentava anche lui, lo so, di questa cosa. No, racconta questa cosa come, lo cito come luogo comune. Sì, no? Sì. Quindi era l'idea che fosse un luogo comune già 200 anni fa, la dice lunga. Ma infatti, come siamo messi. Perché mi è piaciuto questo titolo che mi è venuto in mente? Perché in realtà dice due cose nello stesso tempo: che effettivamente per tanti versi non ci sono più le mezze stagioni, ma nello stesso tempo è un luogo comune, quindi nulla cambia, tutto resta uguale. Esatto, no, diciamo che nel contempo questi due aspetti. Fabrizio Rondolino è giornalista, è scrittore, autore TV, e se ne è uscito per Mondadori con questo libro che si intitola Attenzione, l'Italia non esiste, per non parlare degli italiani. E io, prima che tu ci sintetizzi, Fabrizio, brevemente, diciamo, il succo di questo tuo libro, vado a prendere una sintesi che è molto forte, che dà appunto il senso di questo tuo saggio. Attenzione, ascoltatrici e ascoltatori, diciamo, un po' così deboli, fragili di cuore, eccetera, perché dice che l'Italia non è mai stata una nazione e non lo sarà mai. L'Italia, l'unità d'Italia che pomposamente si festeggia o si dileggia a seconda delle opportunità politiche, è la più grande catastrofe abbattutasi sulla nostra penisola, dice Rondolino, e sottolinea che gli unici che ne hanno tratto vantaggio sono praticamente lo Stato Pontificio, lo Stato della Chiesa, dice, che si è allargato a tutti i confini dell'Italia. L'Italia Unita, dice, un ipertrofico Stato Pontificio dal quale ha ereditato le sue due caratteristiche principali. Cito Rondolino: la corruzione e l'ipocrisia. Insomma, piuttosto forte questa tua tesi, Fabrizio. Sì, poi naturalmente il libro contiene anche parti, come dire, più argomentative. Certo, no, questa, però affrontando un argomento del genere, soprattutto in un periodo in cui appunto invece prevale la retorica risorgimentale, ma perché sai, il problema è festeggiarsi di per sé può anche essere una buona cosa, ma il modo in cui noi italiani ci siamo festeggiati, secondo me, già, diciamo, la dice lunga su come siamo, perché a parte questo aspetto ridicolo che ricorderai, due ministri hanno votato contro, si sono astenuti sulla festa del 17 marzo. Sì, no? Ma c'era stata un sacco di polemiche su questa cosa qui, non si doveva festeggiare. Il primo che dovrebbe festeggiare il suo paese dovrebbe essere il governo. Sì, no? Sì, viceversa, sì. Benigni, che è un comico, quindi il cui mestiere dovrebbe essere quello di prendere in giro anche le cose più sacre come la patria o l'inno nazionale, invece al contrario a Sanremo ha fatto una specie di lezione di educazione civica, ha fatto piuttosto male commovente. Sì, no, quindi voglio dire, è un mondo alla rovescia, dove appunto i comici difendono la patria e il governo invece si astiene. Se è così, vuol dire che, come si dice, il difetto è nel manico, no? Forse noi non siamo uno Stato, non siamo una nazione. Ma quindi tu lo dici, Fabrizio, diciamo, con grande rammarico, con amarezza, o per dire: guardate che era meglio quando eravamo tanti staterelli separati? Ma lunga meglio quando eravamo tanti staterelli, ma sai, ma neanche quelli dell'Ottocento, neanche quelli preunitari, io dico ancora prima. Cioè l'Italia, tra quando si dissolve l'impero romano e fino al 1500-1600, quando arrivano gli stranieri, appunto Francia e Spagna, purché se magna, ma insomma in quegli anni, in quei 500-600 anni, l'Italia era spezzettata non in 5-10, ma in 500 entità statuali, diciamo così, cioè piccole comunità, i comuni per l'appunto, principati, marchesati, eccetera. E sono gli anni, i secoli in cui l'Italia, gli italiani hanno dato il meglio alla civiltà mondiale, perché sono gli anni dell'umanesimo, gli anni del Rinascimento, gli anni di Dante e di Leonardo, fino a Michelangelo, e tutta questa cosa qua è stata poi in realtà compressa in una forma, cioè lo Stato nazionale unitario, che Cavour ha copiato dai francesi, ma che non c'entra niente con la storia italiana. Quindi un po' contro natura, secondo Fabrizio Rondolino. Ti devo dire, tra l'altro, tu dici che l'Italia in questo libro è in un momento di inesorabile declino progressivo, dici, arranca nelle retrovie di tutte le graduatorie, penultime al mondo per tasso di crescita nei primi 10 anni del millennio, dal punto di vista dei servizi, delle infrastrutture, degli altri fondamentali indicatori. Però ti comunico in anteprima, caro Fabrizio, ero andata a prendere, ecco qui sul Corriere.it, vino, ora l'Italia e prima al mondo Francia superata, credo, rispetto ai cugini francesi, che c'è sempre questa ostilità, diciamo, questa competizione, un bel primato almeno questo. Brindiamo, brindiamo, che e dici? Brindiamo, una buona notizia. Comincerei a sentire il numero verde Franco da Rieti. Salve Roberto, salve a tutti. Ciao Franco. Niente, volevo fare un intervento un po' provocatorio. Sì, dobbiamo tenerci forti? Dobbiamo tenersi forti? No, non più di tanto. E come risposta, diciamo, alla proposta della Lega Nord di trasferire i ministeri da Roma a Milano. Sì, anche se Berlusconi negli ultimi giorni poi ha detto, vabbè, ci saranno degli uffici di rappresentanza. Sì, infatti. No, ma perché Bossi dovrebbe sapere che moltissime multinazionali hanno sede a Milano. Moltissime banche, anzi quasi tutte direi, hanno la direzione generale a Milano. È la capitale economica, ora, certo. È la capitale economica. E visto e considerato che in Italia il 55% dell'economia gira intorno o direttamente o indirettamente intorno ai finanziamenti pubblici, comprese le banche, allora a questo punto, per compensazione del trasferimento dei ministeri da Roma a Milano, dovremmo trasferire le direzioni generali da delle banche e delle altre imprese da Milano a Roma. Cioè una specie di scambio equo solidale, diciamo. Sì, una cosa questo così. Lo dico come provocazione, perché veramente ridursi a queste proposte dimostrano l'ennesima volta la miopia di questo movimento politico. Tutto qua. Grazie Franco, questo è il pensiero di Franco. Invece, prima di sentire Filippo della provincia di Frosinone e ritornare naturalmente alle opinioni di Fabrizio Rondolino, volevo fare anche un excursus così molto veloce sui commenti vostri sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio, se il PDL facesse le primarie, no? Chi vederebbero bene i facebookiani? Diciamo, c'è stato anche un certo moto spiritoso, chi ha proposto Super Pippo, chi il Gabibbo, eccetera, eccetera, però, insomma, chi l'ha presa seriamente questa cosa? Nuccia dice, non credo nel PDL, partito sorto per ossequiare il capo, dice, invece per Monica c'è Tremonti, che è il nome che diciamo ricorre da più tempo. Raffaele dice, difficile, molto complicato trovare qualcuno che gestisca un movimento creato da un uomo solo, forgiato intorno a lui. E poi Dora invece propone Brunetta. Che ne pensate voi? Sapete che c'è un po' nell'aria questa proposta di fare le primarie anche per il PDL. Poi insomma si vedrà se effettivamente si faranno. A proposito dello spot dei Bronzi di Riace, non so se l'avete visto, polemiche, cose, no, sono scandalosi, eccetera, eccetera. Alessandra dice, molto carino. Massimo dice che non l'ha visto, alcuni altri non l'hanno visto. Per Antonio è fatto molto bene, come al solito dice, sono solo le solite polemiche degli italiani. Per Dora lo trovo molto carino, positivo. Pensa, mi fa pensare alla Calabria, infatti è quella che vuole sponsorizzare. Raffaele dice, mi è sembrato carino, almeno due corpi nudi maschili, seppure di acciaio o pietra, se no tutto, cito, un culo e tette di donna, oddio, non male, ma dopo un po' assuefazione, vediamo qualcosa di diverso, dice Raffaele. E ancora sulla questione della proposta leghista di trasferire i ministeri al nord, che il ministro della cultura Galan ha definito una puttanata intercontinentale. Allora, Dario è d'accordo. Francesco dice, condivido, è solo propaganda fine a se stessa. Corrado dice, citando appunto la trasmissione, visto che il tuo, Roberto, è l'unico programma con collegamento interplanetario, che come sempre tra poco ci sarà, direi che è una puttanata intergalattica, diciamo, un po' adeguato alla trasmissione. Per Stefano Landi è vero quello che dice Galan, anche per Massimo Ferrara dice sante parole. Monica dice, Galan era in un momento di lucidità. Carmela chiede, vorrei conoscere le motivazioni di questa proposta. Se un ministero sta a Roma, non si può occupare del nord o viceversa? Confermo le parole di Galan. Enrico dice: volevano cambiare anche l'inno, non bisognerebbe dare tanta risonanza a queste idee. Raffaele dice: sarebbe un inutile spreco di risorse duplicare a Roma Milano. E poi naturalmente ci sono anche riflessioni sul divorzio tra Santoro e la Rai. Per Margherita è un esempio classico di italico tafazzianesimo, cioè il darselo proprio sui cosiddetti, per lei. E poi Stefano dice: per la Rai sicuramente una perdita in tutti i sensi di libertà di informazione, ascolti eccetera. Dora dice: forse finalmente lui si acquieterà un po', almeno si spera. Monica scrive: la RAI è destinata a scomparire, si tira la zappa sui piedi mandando via la maggior fonte di introiti pubblicitari. Stefano dice che notizie di questa settimana, Stefano Pini dice lo yo-yo di Feltri, che sapete che ha lasciato di nuovo il giornale, poi il contratto di Santoro, poi dice liberi servi, questa manifestazione organizzata da Ferrara che dice che dettano la linea al loro partito, una noiosa settimana di metagiornalismo. Addirittura, che ne pensi Fabrizio Rondolino? Poi ci sarà Monica, Filippo, Carmelo, un sacco di ascoltatori che stanno chiamando alla ricezione di Viola Bottoni che sta smistando le varie telefonate. Che dici Fabrizio? Ma su tutte le cose che hai detto che hanno detto sì. Se ce n'è una di che ti ha colpito di questi commenti degli ascoltatori, no, vabbè, delle ascoltatrici. Cosa dei ministeri, che poi è una di quelle robe che non si faranno mai, no, non credo anch'io. Il sapore propagandistico è evidente. Però su quei ministeri la mia riflessione è un'altra, cioè mi stupisce che sia la Lega a fare una proposta del genere. La Lega dovrebbe, secondo me giustamente, battersi per l'abolizione dei ministeri, non per il loro trasferimento a Milano. Cioè il federalismo, se è una cosa seria, il federalismo può essere due cose, può essere o moltiplicare i centri di potere, quindi di spesa, quindi di spreco, quindi di inefficienza, di burocrazia, eccetera, per cui oltre allo Stato ci abbiamo anche appunto le regioni, i comuni, le province, eccetera. Oppure invece il federalismo vero è il decentramento dei poteri, cioè il governatore della Lombardia che assume dei poteri che appartengono ai ministeri, non i ministeri che vanno in Lombardia. Questo è un punto fondamentale, perché altrimenti appunto ci prendiamo in giro, no? Almeno questa è la mia impressione. Su Santoro voglio dire soltanto una cosa, che lui è stato cacciato, cioè non è vero che… Non è stata consensuale questa separazione, secondo te? Nel senso che è formalmente consensuale, ma per due anni a Santoro è stato, non dico impedito di lavorare, ma insomma è stato fatto di tutto per rendere difficile, è molto difficile lavorare in un'azienda avendo dove l'ostilità dice, ti ostacola, ti arrivano le circolari, ti bloccano il pubblico, ti bloccano gli inviti, insomma, no? Va bene, vediamo. Poi se tra poco Fabrizio Rondolino, anche le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24, se vogliono esprimersi su questo argomento, dicevo Monica, Filippo, Carmelo e tutti gli altri. Prima però, come ricordava anche un facebookiano, qui ci vuole naturalmente il collegamento interplanetario. Riflessioni da Marte. Diciamolo, e naturalmente ve lo dico come sempre da quassù, da Marte, osservando la vostra sfera terraquea dal punto di vista che posso avere dal mio pianeta, diciamolo, dicevo, questa è stata la settimana dei processi sommari. Sì, processi in cui i poveri innocenti hanno rischiato di vedersi distrutti per sempre dopo vite impeccabili, irreprensibili, sono sfilati uno dopo l'altro sul banco degli imputati con un'intera opinione pubblica con l'indice puntato contro di loro, il pollice verso, sono sfilati, dicevo, davanti al pubblico ludibrio, impietosamente. Vogliamo ricordare dunque chi sono questi innocenti infangati? In questi giorni, per primo, è toccato al Cetriolo, con quell'aria così innocua, così palesemente innocente nella sua rudimentale semplicità che nemmeno Jack lo Squartatore avrebbe mai potuto infierire contro di lui. Poi è stata la volta dei germogli di soia. Agiscono sempre in branco, avranno pensato, no? I loro strenui accusatori. Sono loro i colpevoli. E in effetti, avete mai visto un germoglio di soia agire solingo? Certo che no. Sono gregari per natura, sembravano i capri espiatori ideali, ma niente, scagionati anche loro. Poi, in una sequenza giustizialista senza precedenti, sfilano ancora il pomodoro rosso di vergogna per un'inqualificabile umiliazione. E quindi la scapigliata lattuga, però prosciolti poi a loro volta. In seguito il ministro avverte: attenti al fieno greco, notoriamente presente sulla tavola di ogni ordinario consumatore, e dice altresì: guardatevi dalle zucche. E in effetti, diciamolo a ben vedere, nella festa di Halloween avete notato sempre le zucche con lo sguardo un po' sinistro. Ma poi si scopre che sono puliti anch'essi. E quindi verso chi indirizzare ignominiose accuse? Viene riacciuffato il branco dei germogli di soia. Ma come, non erano innocenti? Ma che, era solo una questione di termini? Sarebbero in realtà germogli di fagioli, che in Italia vengono chiamati germogli di soia. A volte, sapete, le omonimie ambigue, no? Non sarebbe il primo processo questo. Insomma, Meno male, diciamo che tutto è molto chiaro. E in attesa di una condanna definitiva, chi altro è stato giudicato con ingiustificata durezza questa settimana? Due pezzi di fusti in TV. Insomma, è mai possibile, dico, che i nudi femminili debbano essere utilizzati in televisione per promuovere qualsiasi cosa? Dallo yogurt ricco di fermenti per il duodeno sino al silicone sigillante per l'edilizia. È per una volta che ci sono due nudi maschili in TV, seppure rivitalizzati dal digitale per promuovere la Calabria, eppur con la faccia di bronzo dei due di Riace scoppia tutto questo scandalo. E che sarà mai? Insomma, sono volgarissimi, sono due bulli, così si mortifica l'arte, hanno tuonato taluni solo perché i due hanno guizzanti chiappe al vento e una microscopica nocciolina non ben identificata sul davanti. Tutto questo scandalo. Via, lasciate che anche le donne, e magari anche non solo loro, si rifacciano un po' gli occhi e possano sognare. Ma chi è quello lì? Con le cosce come due tinozze. Quello lì! Che sta passando vicino alle cozze. Io lo devo conoscere assolutamente. Vado lì, glielo dico, non ci posso più. Ma non sarà elegante, anche se soffende non mi porta niente. Pesante, lo sento, un vero portento. Ora vado all'attacco, lui sarà per me. Ed eccoci di nuovo con i piedi per terra, quindi corro al numero verde 800 24 00 24. C'è Filippo da Frosinone. Caro Filippo. Pronto? Pronto? Sì. Io ascolto bene. Sì, anch'io ascolto bene, Filippo. Che mi racconti? Ti racconto che siccome un mio amico che è tornato dal Brasile, sì, accennava, diceva, ho letto parecchi giornali dall'Italia perché lui rimane in contatto con l'Italia e quant'altro. Giustamente. E diceva che non gli è mai capitato di vedere su nessun giornale o su, così, per cui lui leggeva i giornali, non poteva sentire la televisione, e non è stato affrontato il problema che in Brasile non esiste l'ergastolo. Pertanto, per quanto riguarda il fatto di Battisti, dice, non è che non venga considerato sul piano giuridico una disponibilità da parte dell'Italia ad accettare la minore pena, che è quella di 30 anni, non mi ricordo. Cioè, non, lui lo dà come un fatto molto importante, qui in Italia non è stato mai... Cioè, scusa Filippo, lui dice che siccome in Italia, in Brasile non esiste l'ergastolo, loro non possono permettere l'estradizione di un uomo che ha 4 ergastoli per aver fatto fuori 4 persone? Esatto. Esatto, a meno che noi non ci impegniamo a fargli passare solamente 30 anni. Così come noi non potremmo passare un nostro prigioniero, diciamo, che... Si è prevista la pena di morte, per esempio, dici? Un paese dove c'è la pena di morte, noi dandolo dovremmo, come era successo il caso Erdogan. Mi sembra strano, Filippo, adesso magari mi sbaglierò, non riesco a seguire tutto così capillarmente, però... Mi sembrava che ci fosse stata forse una disponibilità da parte dell'Italia anche a un po' contrattare, diciamo, sulla pena. Però da qui a lasciarlo libero con la sua ragazza 26enne di fare quello che vuole in Brasile, e hanno già chiesto permesso anche di avere un lavoro che gli dà possibilità di rimanere indefinitamente in Brasile, da qui mi sembra che una mediazione ci potrebbe essere, no? No, ma io non è che sto facendo una valutazione... Racconti quello che ha detto il tuo amico. Sto facendo presente che, in effetti, io l'ho seguito questo caso perché è capitato che mi abbia un po' appassionato sul piano giuridico, e in effetti io non ho mai letto questo fatto della doppia, la differente pena massima che esiste in Italia rispetto a quella che esiste in Brasile. E quindi un ragionamento per adeguare un'eventuale pena sopportata in Italia a quella che è la massima brasiliana, non so se mi sono spiegato. Ma abbastanza, Filippo, abbastanza. Intanto ti ringrazio. Ci manca un minuto alla prossima pausa, Fabrizio Rondolino. In questi, diciamo, 58 secondi, mi dici la tua su questo caso abbastanza, anzi, fortemente eclatante. Volevo precisare una cosa: in realtà non c'è neanche in Italia l'ergastolo. Sì, è vero. Anzi, poi citerò un caso giudiziario vergognoso tra pochissimo. Continua. No, nel senso che con la riforma Gozzini, la riforma penitenziaria, in realtà sì, dopo circa 30 anni tutti gli ergastolani, se per buona condotta, vengono dati in affidamento, semilibertà e poi anche la libertà, perché questa è una misura elementare di civiltà. Il Brasile non ci ha dato Battisti perché in Brasile prevale invece, secondo me, una lettura molto politica di quello che è avvenuto in Italia negli anni 70, per cui un gruppo di assassini sono ancora considerati in Brasile come in Francia dei rifugiati politici. Pazzesco questo, no? Siamo d'accordo, no, che è una cosa che non sta nessuno intendendo. È estremamente grave, secondo me, perché non è un problema di ordinamenti giudiziari, cioè comunque quello ha ammazzato le persone, poi dicevi tu bene, si trova l'accordo, non è che nessuno lo vuole... torturare quest'uomo, no? Però è giusto che le leggi vengano applicate. Certo, e che paghi quello. Guarda, voglio citare questo caso giudiziario per dire anche l'Italia, no? A parte che non c'è l'ergastolo, ma non c'è spesso neanche giustizia. Allora, c'è questa ragazza che ieri ha ottenuto, Vanessa Mele, ha ottenuto di avere il cognome della madre, che si chiamava Mele, una ragazza di 19 anni, che è stata uccisa dal padre anni fa. Il padre si è fatto, era stato condannato a 14 anni, con vari sconti, il rito abbreviato, si è fatto 9 anni per aver ucciso la moglie davanti alla bambina. Lei era bambina allora, il padre ha ammazzato la madre davanti a lei. Quindi possiamo immaginare anche che possibile personalità, così, insomma, a disagio, che futuro, che presente può avere questa ragazza. Comunque, per fortuna sembra abbastanza forte per questa battaglia che ha fatto, per esempio, per ottenere il cognome della madre. Ma la cosa grave non sta qui, sta secondo me nel fatto che quest'uomo ha ucciso la moglie, quindi l'aggravante anche, diciamo, di una persona della famiglia. L'aggravante di averlo fatto davanti alla figlia, quindi ha tolto la madre alla figlia e l'ha tolta davanti ai suoi occhi. Si è fatto non solo 9 anni, attenzione, non solo si è fatto soltanto 9 anni per questo, e diciamo, per cosa si deve fare l'ergastolo in Italia? Io ancora non l'ho capito, i 30 anni. Si è fatto 9 anni, che cosa succede? Lei già questo l'aveva denunciato l'anno scorso, mi pare, a Mi Manda Rai 3. Resta aperta la questione della reversibilità della pensione della madre, che era dipendente della direzione provinciale di lavoro a Nuoro. Attualmente la ragazza Vanessa percepisce solo il 20% dell'assegno della pensione della madre, che viene invece ritirato da suo padre, nonostante la condanna per uxoricidio e nonostante lei l'abbia denunciato già l'anno scorso, 2 anni fa. La burocrazia è criminale spesso in Italia. La legge dove sta? La giustizia. Questa ragazza, non solo il padre si è fatto 9 anni dopo averle ammazzato la madre davanti agli occhi, ma lui percepisce pure la pensione. Sono dovuta prendere una camomilla, scusate nel frattempo, perché ancora mi tremano le vene per l'indignazione che mi prende su certe cose. Roberta Giordano sempre con voi, 800 24 00 24 per esprimere con libertà i vostri commenti sui fatti della settimana. Mio opinionista estemporaneo è sempre Fabrizio Rondolino, giornalista, scrittore, autore TV e autore di questo libro L'Italia non esiste, pubblicato da Mondadori. Vorrei sentire Monica da Parma. Buon pomeriggio Monica. Ti sento benissimo, Monica. Perfetto, è significativo che il mio intervento arrivi esattamente dopo una pausa pubblicitaria in cui si lascia intendere che la vita fuori da questo paese, ovunque sia, è comunque meglio. E io lo posso confermare perché facendo un lavoro che mi porta purtroppo prevalentemente all'estero, perché è un lavoro che potrei fare anche in Italia. Posso chiederti cosa fai? La cantante lirica. Oh, ci fai un do di petto, una cosa? Dai Monica. Dai, prego. Per fare un do di petto dovrei prima andare al Gay Pride, cambiare versante e tornare indietro. Lo fanno. Hai ragione, noi, un po' maschile. Dunque, allora, cosa potresti. Sei un soprano, tu sei un soprano. Sono un soprano, esattamente. Mi riallaccio alla copertina dell'Economist, che non ho ancora comprato per la vergogna, devo dire. Settimanale britannico, che abbiamo detto, dice in copertina l'uomo che ha fregato l'Italia. Poi sentiamo Fabrizio Rondolino cosa ne pensa. Sì. Ecco, allora io appunto lavoro all'estero e lavoro prevalentemente con il Nord Europa e l'Estremo Oriente, Giappone compreso, Cina, Giappone, eccetera. E più sto fuori da questo paese e più mi rendo conto che è incredibile, o forse non è incredibile, è un disegno sottile, di quanto la classe politica di questo paese, nella sua interezza, non si renda conto che il mondo ha cambiato direzione e sta andando da un'altra parte. Le cose accadono altrove. Questo continente, che si chiamava una volta vecchio mondo, non è più vecchio, è decrepito, è morto e sepolto, non ha più niente da dire e da dare in termini di cultura, in termini di ricerca della bellezza, in termini di felicità dei suoi abitanti. Esistono dei posti dove esiste l'edonometro. Lei lo sa che cos'è l'edonometro? È una cosa per misurare il grado di felicità dei cittadini di un paese. Sì. Se lo applicassero in Italia, io credo che ci sarebbero dei suicidi di massa. Ma ci auguriamo di no, non siamo proprio così pessimistica la situazione. Certo, è un po' depressa la situazione. Sì, no, è assolutamente depressa, anche perché l'immagine che l'Italia ha all'estero, da una parte il Made in Italy ha ancora un appeal straordinario, il padiglione italiano all'Expo di Shanghai è stato il padiglione più visitato in assoluto, noi abbiamo questa tradizione che non si può comprare, che nessun altro ha, che non ha fronti e paragoni, che potremmo sfruttare in tutto il mondo e ce ne freghiamo, anzi la mortifichiamo. Non abbiamo una classe politica in grado di investire sulla cultura perché chi fa cultura in Italia è semplicemente un nemico del regime, perché la cultura è nemica del regime. Quindi se io sono un artista, i miei colleghi sono artisti e viviamo e abbiamo investito una vita su questa cosa, in Italia adesso ci trattano come mendicanti. Io all'estero vengo trattata come una professionista che ha 20 anni di carriera alle spalle. Monica, io sono molto contenta del tuo intervento, soprattutto perché fai un lavoro particolare che difficilmente capita di incontrare, diciamo. Ma adesso in tutto questo, visto che hai detto che appunto non c'è più ricerca di bellezza e di felicità, se io volessi l'una e l'altra da te, mi facessi così un'aria di qualcosa, dell'ultima opera magari che hai interpretato, dai, ti prego. Fallo per così me. Sì, è una richiesta al limite dell'impossibile, perché solitamente un cantante canta accompagnato da uno strumento. Certo, per riscaldando la voce. Posso accennare un paio di note, l'inizio di un'aria, una cosa che sto facendo in questo periodo, ma non garantisco sul risultato, anche perché il mezzo radiofonico esiste l'effetto Larsen, quindi non so come funziona, però ci posso provare se vuole. Saremo estremamente giustificativa, non ti preoccupare, saremo molto clementi, Maria, sono sicura. Monica, scusami, sono in attesa, allora, rimango in silenzio religioso. Silenzio. Allora, diciamo, in questo periodo, l'aria che sto studiando in questo periodo, perché ho un concerto da fare di beneficenza per il Giappone proprio fra qualche settimana, è il bel sogno di Doretta dalla Rondine di Puccini. Sì. Ci provo, non garantisco. Silenzio tutti, per favore. Bene. Vai, Monica. Sto anche guidando, per cui... Okay. Guarda dritta la strada, però. Sì. Ecco. Eccoci. Il bel sogno di Doretta poté indovinar il suo mister, come mai finì. Ahimè, un giorno uno studente in bocca la baciò e fu quel bacio rivelazione, fu la passione. Così ardente mai ridir potrà. Monica, eccezionale, mi hai fatto vibrare il petto. I vetri sono ancora intatti lì della macchina, tutto a posto? Non è che le vibrazioni... No. Ho anche incrociato una pattuglia dei carabinieri, è andata bene, mi hanno fermato. Ti facevano la scorta, secondo me. Monica, eccezionale, guarda, mi hai fatto un regalo eccezionale, sento l'applauso del pubblico, guarda, veramente è una cosa che non dimenticherò mai. E torna spesso grazie in Italia, mille. Monica. È uno dei pochi momenti in cui posso cantare in Italia, mi fa anche piacere. Quando sei alla radio o quando sei in macchina, tutte e due le cose, guarda, veramente grazie per questa performance straordinaria. Ciao Monica. Arrivederci, buon viaggio. Buona continuazione. Grazie. Fabrizio, eri emozionato quanto me? Beh, un gradevolissimo, inaspettato fuori programma. È vero, ma è tutto fuori dal programma in realtà, devo dire. Beh, poi il bel canto è delle grandi cose italiane, vengono da tutto il mondo a imparare l'italiano e a studiare qui da noi proprio per questo. Però certo il racconto che ci ha fatto la soprano è verissimo ed è proprio desolante. Carmelo, l'800240024. Carmelo, mi dici giusto l'argomento tuo e poi cioè la viabilità? Carmelo? Pronto? Carmelo è rimasto così, diciamo, rapito dalla musica. Rapito dalla musica. Chissà dove è stato portato poi. C'è Fabio? Sì, buonasera, buongiorno. Buongiorno, buonasera a te, a seconda di come preferisci, sì. È un po' cupo qua a Milano, lì da te come sei a Milano anche tu, quindi... Io sono a Milano, sì, ecco. Sì, è un po' così, un fa po'... dire buonasera. Buonasera. Prego, Fabio. Guarda, volevo dire semplicemente una cosa, prima di tutto la signorina Monica, che ha cantato una canzone bellissima, che lei vede il mondo dalla prospettiva di un miliardario, no? E quindi perché frequenta teatri, alberghi... Non credo, lei dice che non mi è parso una miliardaria, io non credo insomma, proprio, è una persona, Fabio. Privilegiata rispetto a chi magari vive di stipendio e quindi è più facile notare le bellezze nel mondo. Il mondo ma io dico che non starà malissimo, però se è costretta ad andarsene all'estero per lavorare proprio benissimo non starà. Poi ci sono quelli che arrivano a livelli incredibili e d'accordo guadagnano parecchio, gli altri credo che... È triste, quindi la inviterei a vivere all'estero visto che parla così male del nostro paese e non è tutto da buttare. Però io volevo dire una cosa, non mi sembra, rispondendo alla signora di prima, che il signor Santoro non abbia la possibilità di lavorare in Rai, perché mi sembra che abbia sempre fatto quello che ha voluto, ha fatto venire sempre gli ospiti che voleva e non ha, praticamente non ha mai un grande contraddittorio, perché poi invita sempre magari personaggi di destra così inferiori a livello proprio culturale o... Ma senti, io credo che dia spazio un po' gli uni un po' gli altri, poi lui si sa come la pensa, poi se tu dici che sono di livello inferiore quelli di destra che invita, io non so se è colpa di quelli lì personalmente o della destra, non lo so se sono così non credo che lui vada a dire questo vale meno, un po' offensivo verso questi esponenti della destra. Lavori, tanto anche strapagato, visto che alla fine è un giornalista e guadagna 100 volte di più di qualsiasi altro giornalista, tutto qua. Grazie Fabio, il tempo comincia a correre, ma Roberto Giordano sempre con voi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata come tutte le puntate di Non ci sono più le mezze stagioni su podcast, anche con la piattaforma iTunes, è vero Pietro Lacorte, tu mi insegni queste cose complesse, diciamo, e poi naturalmente sul sito di radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, potete cercare Roberto Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Carmelo da Catania. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, Carmelo. Sì, forte e chiaro. Io volevo porre alcune questioni che riguardavano in riferimento all'articolo dell'Economist. Sì. E soprattutto la questione fiscale. Ancora oggi, tristemente, Tremonti ha smentito la possibilità che vi sia breve la riforma fiscale. E questo è un primo punto. Sì, ha detto frena sulla riforma fiscale perché dice la crisi morde ancora, ci vuole prudenza. Ma l'altra grande questione riguarda tutta la vicenda della riscossione in Italia, che sta coinvolgendo milioni di cittadini e migliaia di imprese. Con Equitalia. Con Equitalia, con misure cautelari che stanno strozzando assolutamente l'economia. E credo che questo per il nostro paese sia un dramma serio che va assolutamente risolto, perché il rischio di una rivolta, così come in parte sta iniziando a succedere in Sardegna, si possa estendere in tutta Italia. Per cui credo che il governo debba porsi seriamente, anche dopo i voti della scorsa settimana in Parlamento, una modifica della normativa. Fra l'altro proprio in Piazza Montecitorio il 16 giugno alle 15 sarà inondata da una marea di contribuenti che chiederanno una forte riforma, che credo sia indispensabile per risanare poi l'economia. Cioè la prima volta che i contribuenti scendono in piazza per chiedere di poter pagare le tasse. In modo dilazionato è un po' più sostenibile. Ecco, insomma. Credo... Carmelo, ti ringrazio, perdonami, che devo andare subito a Fabrizio Rondolino, perché poi i minuti corrono e abbiamo anche poi la satira di Spinoza.it e l'analisi della parola della settimana. Che ne pensi di questo articolo dell'Economist? È di un titolo fortissimo, no? Con Berlusconi in prima pagina, in copertina, l'uomo che ha fregato l'Italia. Siamo un po' esagerata o... Ma loro ci hanno, lo sai, no? Lo hanno scritto i giornali, hanno un po' il dente avvelenato, perché l'Economist è da diversi anni che dedica regolarmente copertine, diciamo, pesanti a Berlusconi. Certo, l'impressione che il ciclo berlusconiano, diciamo così, sia prossimo alla conclusione senza aver ottenuto grandissimi risultati è un'impressione abbastanza fondata. Quello che diceva l'ascoltatore prima sul fisco, secondo me, è essenziale, perché quello che doveva fare Berlusconi era la rivoluzione liberale, che non vuol dire per forza abbassare le tasse e basta, ma avrebbe dovuto voler dire liberalizzare, sburocratizzare, riformare il mercato del lavoro, cioè togliere tutti quei vincoli burocratici che ciascuno di noi ogni giorno incontra e che appesantiscono l'Italia fino a immobilizzarla, no? E questa cosa non è avvenuta. Poi certo, fregato l'Italia, forse sono gli italiani che hanno fregato l'Italia, semmai, insomma, visto che il consenso c'è, scende dal cielo, ho fatto il colpo di stato, certo. Quindi... Fabrizio, sentiamo subito adesso molto velocemente al galoppo galoppo la satira di Stefano Andreoli col suo blog spinoza.it, veramente il blog satirico più cliccato della rete, almeno nel suo quartiere. Stefano Andreoli, un'istantanea proprio veloce di questa settimana, caro Stefano. Siamo in onda, prego, siamo in onda. Scusami, stavo gorgheggiando, riscaldavo la voce per intonare Nessun Dorma. Diciamo un esito un po' meno weekend. Piacevole, sì, prego. Nessun Dorma, scusate. Sì. No, non possiamo parlare di quel che sappiamo, quindi andiamo avanti. Borghezio malmenato in Svizzera. Tipo, non so, vorrei, letto sì. La notizia, sì, sì, Borghezio. Sì, ho letto. È stato in Svizzera, pare che gli urlassero sporco comunitario. È veramente un contrappasso notevole. Gli svizzeri erano neutrali da 500 anni e per la prima volta Borghezio ha avuto un risultato, sì. Perdere le staffe. Niente tradizione per Battisti. Per punizione gli manderemo anche Baglioni. Ecco, così direi che la punizione è completa. Sempre più veloce, batterio killer analizzato dagli scienziati. Si tratta di un ceppo nuovo, altamente tossico, ma per adesso ha smentito che si candiderà alle primarie del PDL. Meno male. Ancora sì. Pare che non accadrà. Ricevuto oggi, proprio quest'oggi in Vaticano, Walter, gay, rom e musulmano. Sì, è vero, è bella storia. È il vice sindaco di Pisapia, ne ha preso uno proprio che... Che riunisse un po' tutte... Incarnasse un po' tutto. Vorrei mandare un bacio a Monica, la soprano che prima ci ha lietato, e chiuderei con questo... spinoso caso del calcio scommesse. Attenzione con la mannaia, Pietro. Sì. Il Kodakons chiede, ho tre battutine veloci, il Kodakons chiede di rigiocare le gare truccate. Sì. Quindi quest'estate ci godremo 3 o 4 campionati interi, tutti quest'estate. Bisognerà un po' organizzare i calendari, ma Beppe Signori, lato positivo della vicenda, Beppe Signori potrà dimostrare ancora quanto vale con la palla al piede. Direi che posso chiudere dicendo che, appunto, la sintesi di questa inchiesta, essere pagati per ostacolare la propria squadra è reato. A meno che tu non sia il direttore del TG1. Molto bene, via! Noi, mai troppo presto, diciamo, per il nostro Stefano Andreoli. E andiamo invece molto velocemente, mentre Fabrizio Ordolino pensa a una sua conclusione per questa puntata. Valeria Della Valle, siamo veramente, perdonami, io ti costringo sempre a essere una donna da Formula 1, diciamo, proprio dalla Sapienza di Roma, trionfalmente. Valeria Della Valle, io ti proporrei come parola quorum. Non abbiamo potuto parlare di referendum, per carità, ma il quorum si può dire. Quorum, velocissima. Allora, quorum naturalmente deriva dal latino, significa dei quali, e faceva parte di una formula latina che era quorum maxima pars, cioè la maggior parte dei quali. Ora, questa espressione latina ci è arrivata però attraverso l'Inghilterra, come tante altre espressioni della terminologia parlamentare, quindi da noi, che abbiamo avuto un Parlamento molto più tardi di altre nazioni, ci è arrivata nell'Ottocento col significato che sappiamo, o di numero legale oppure della percentuale minima dei voti necessaria perché l'elezione sia valida. Chiudo esprimendo gratitudine alla lingua latina, perché ancora oggi in fondo, ecco, se parliamo di queste cose usiamo parole come non è referendum e quorum, oppure quelle inventate genialmente dai giornalisti, pensiamo a batti quorum, soffio al quorum o in alto il quorum. E in alto i quorum soprattutto, grazie Valeria Della Valle. Mentre sto per chiudere dico a Fabrizio Rondolino, Fabrizio, ho letto che anche a Downing Street è invasa dai topi, finalmente c'è questo gatto Larry che sta cominciando a mangiarne qualcuno, dice un successo dell'agenda di David Cameron, il primo ministro inglese, vedi che hanno i loro problemi anche loro. Con topi, gatti, eccetera, eccetera. Non è vero, Fabrizio? Non solo in Italia ci sono questioni. Come no, ci salutiamo? Non solo in Italia, no, vabbè, ma gatti, topi, animali in genere sono alla fine la parte migliore di noi. Anche sono d'accordo, sono perfettamente anche d'accordo. Sembrano sgradevoli. Dunque, impariamo da loro e vivremo meglio tutti quanti. Grazie, Fabrizio Rondolino. L'Italia non esiste, il suo libro per Mondadori. Vi ricordo che potete sempre andare sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.